di mille quelli del dolore, perché si vive sempre nel tormento dell'amore. Quando tu baci l'altra, l'altra che ha tolto a me quasi la vita. Lo so, ma voglio vivere e voglio ancora illudermi d'essere amata. Quando tu baci la piace a te più della vita, lo so, son disperata, ma è tanto bello, tanto dolce essere baciata. Thank you.